Perfetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. È scontro sul decreto lavoro, così non lo votiamo, dice il nuovo centrodestra in corso un vertice di maggioranza. Tagli di spesa, secondo alcune indiscrezioni, si andrebbe verso il dimezzamento degli F-35. Escludo una manovra correttiva, dice intanto il ministro Padoan al Sole 24 Ore. Scatta oggi lo spesometro. Il ministro Alfano annuncia un piano speciale per la sicurezza a Roma. Si temono nuove manifestazioni violente dei movimenti per la casa. Altri 1200 tra immigrati e profughi sbarcati nelle ultime 48 ore sulle coste italiane. Secondo la Lega l'emergenza ci costa 9 milioni al mese. Pubblicate le graduatorie dei test di medicina. Padova piazza 15 studenti tra i primi 100, Bologna 11, ma il test potrebbe essere invalidato dalla vicenda del plico sospetto a Bari. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Apriamo dunque questa giornata, naturalmente vi ricordo come sempre che le notizie, se volete, le potete commentare al 349-238-6666 oppure scrivendomi su Twitter Simone Spezia. Apriamo parlando del decreto lavoro che sta creando più di qualche problema all'interno della maggioranza, come forse era prevedibile. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Un vertice di maggioranza per trovare la quadra sul decreto lavoro è in corso qui alla Camera tra il ministro del welfare Giuliano Poletti e quello con i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, insieme ai capigruppo di maggioranza di Camera e Senato. L'incontro è reso necessario dopo l'out-out del nuovo centrodestra, le modifiche effettuate in commissione alla Camera, spinte dalla sinistra PD. Il governo pensa di mettere la fiducia, ma Fabrizio Cicchitto dice: al momento non c'è l'accordo e noi nel nuovo centrodestra non votiamo il decreto lavoro. D'accordo anche i senatori alfaniani, dove i numeri, ricordiamo, a Palazzo Madama sono molto più stretti per il PD. Non piace la modifica di abbassare da 8 a 5 la possibilità di rinnovare i contratti a termine nell'arco di 36 mesi. Critiche anche da Renato Brunetta di Forza Italia e Gianfranco Librandi di Scelta Civica, che chiedono il ritorno alla forma originaria. Altro capitolo, Simone, è quello dello sgravio IRPEF per i redditi fino a 26.000 euro. Stamattina interviene il ministro delle economia Piercarlo Padoan, il bicchiere è mezzo pieno e pensiamo di riempirlo via via che le misure si rafforzeranno e diventeranno permanenti. Estendere il bonus degli 80 euro anche ai pensionati sarebbe costato troppo e non sarebbe stato credibile. L'importante è che torni la fiducia. Sulle coperture Padoan sottolinea ancora le critiche dell'ABI sul fatto che le banche sono contrarie all'aumento della tassazione al 26% sulle plusvalenze delle quote Banca Italia. A te Simone. Grazie alla nostra Elisabetta Fiorito. Torneremo sul tema della spending review e dei tagli, in particolare agli F-35, tra un attimo. Intanto saluto Irene Tinagli di Scelta Civica, buongiorno. Buongiorno. È esperta di lavoro, è per questo che l'abbiamo voluta in onda con noi. Cos'è che non vi piace di queste modifiche apportate al decreto? Ma le modifiche apportate sostanzialmente reintroducono alcuni vincoli per cercare di mettere un po' un freno a quella che per alcuni era suonata come una, diciamo, liberalizzazione eccessiva del contratto a tempo determinato, e certamente non è il modo migliore secondo noi per tutelare i lavoratori. Noi avevamo proposto delle tutele magari di tipo economico, degli indennizzi di cessazione, un accompagnamento ai servizi, ma non crediamo che reintroducendo vincoli burocratici per le imprese o aprendo spazi per contenziosi eccetera che sia il modo migliore per tutelare i lavoratori, spaventando magari anche le imprese. Ma il vero nodo per noi è non vediamo il motivo per separare la riforma del contratto a tempo determinato da quella a tempo indeterminato che è stato rimandato alla legge delega, e noi avevamo fatto la proposta di tenerli insieme, perché la vera flessibilità di cui c'è bisogno in Italia non è tanto quella sul tempo determinato, che infatti è ormai il contratto prevalente, ma quella sul contratto a tempo indeterminato, è quella che è urgente. Basterebbe cosa ipotizzate voi per il contratto a tempo indeterminato? Guardi, noi avevamo proposto un emendamento per anticipare in questo decreto alcune parti, cioè che per i primi 3 anni del contratto a tempo indeterminato il datore di lavoro potesse cessare il rapporto con un indennizzo economico che crescesse al crescere dell'anzianità di servizio, e lo proponevamo sia per il contratto a tempo determinato che indeterminato. In questo modo i due contratti avrebbero più o meno la stessa appetibilità per il datore di lavoro, e quindi ci sarebbe in un certo senso anche un incentivo ad assumere a tempo indeterminato, perché per i primi anni c'è una maggior flessibilità. Senta. Quindi era un modo per stimolare le assunzioni a tempo indeterminato e dare la flessibilità necessaria. Ultima domanda, è in corso il vertice di maggioranza, vedremo che cosa ne emergerà. Se il governo dovesse mettere la fiducia sul testo com'è adesso, votereste la fiducia? Ma guardi, la fiducia sarebbe veramente la fiducia nel fatto che questo testo possa migliorare al Senato, francamente, e che possa in qualche modo anche accelerare le riforme vere che stanno nella legge delega. Questo non è un piano lavoro, questa è sono un paio di semplificazioni sui contratti a termine. Grazie a Irene Tinagli di Scelta Civica, buona giornata e sentiamo a proposito di tagli gli F-35. Il decreto IRPEF varato venerdì scorso si limitava ad una sforbiciata di 153 milioni. Il governo Renzi sarebbe però al lavoro per dimezzare le spese legate al programma F-35, il cui costo complessivo per il nostro paese è stimato in oltre 11 miliardi di euro. L'obiettivo sarebbe quello di ridurre da 90 a 45 i cacciabombardieri da acquistare, senza però pagare pesanti penali legati ai contratti già stipulati e senza conseguenze per lo stabilimento costruito alle porte di Novara per l'assemblaggio degli F-35 ordinati dal nostro paese e dall'Olanda. Per farlo, secondo quanto scrive oggi Repubblica, l'esecutivo punterebbe a rallentare gli acquisti utilizzando tutte le possibilità offerte dai complicati protocolli commerciali che regolano il programma F-35, ma la svolta vera e propria, cioè il dimezzamento del programma, dovrebbe arrivare con il nuovo libro bianco della difesa che l'esecutivo dovrà presentare entro l'estate. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E su questo torneremo più avanti nel corso di Effetto Giorno, cercando anche di fare un'analisi appunto sulla fattibilità di questi tagli per gli F-35. Ma dall'aviazione militare passiamo a quella civile. Oggi una giornata decisiva per Alitalia. Etihad chiede più tagli al personale e una ristrutturazione del debito più vantaggiosa. In altre parole, la compagnia degli Emirati vuole una riduzione dei costi. Dunque i 1900 esuberi, già più o meno digeriti alla Magliana, non bastano più per convincere il vettore di Abu Dhabi a restare al tavolo della trattativa. Vanno aggiunti altri 6-700 posti da sacrificare. Sugli altri capitoli il governo dovrà metterci del suo, spingendo le banche sul fronte del debito e risolvendo per quanto possibile il caso Malpensa, visto che Etihad non intende avere altro hub di riferimento se non Fiumicino. Poi ci sono le tratte e anche qui l'esecutivo dovrà appoggiare la linea degli Emirati, che è quella del lungo raggio più redditizio a discapito del medio. Alla prima lettera di Etihad l'Italia avrebbe risposto, la replica però non sarebbe ancora arrivata. Secondo alcune fonti la compagnia italiana vorrebbe chiudere un preaccordo con i sindacati sulla cassa integrazione a zero ore per circa 1000 dipendenti. Ma il nodo più difficile da sciogliere sarebbe quello dei debiti. Etihad avrebbe chiesto un taglio di almeno 400 milioni di debiti verso le banche, su un miliardo circa in totale, provocando la reazione stizzita di Unicredit e Intesa, le quali però hanno solo da perdere se dovesse sfumare il rilancio della compagnia. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ve lo avevamo annunciato nei titoli che avremmo parlato di spesometro. C'è in studio con noi Giovanni Parente del Sole 24 Ore. Giovanni, buongiorno. Buongiorno a voi. Ormai massimo esperto. Allora dici che cos'è questo nuovo mostro, diciamo così. È una comunicazione che le partite IVA, quindi vale a dire i commercianti, gli esercenti, ma anche i professionisti, devono fare all'Agenzia delle Entrate, perché devono comunicare tutte quante le cessioni di beni e di prestazioni effettuate a privati, tra l'altro anche a privati cittadini, per valori da 3.600 euro in su. In pratica che cosa si tratta? Io vado ad acquistare un bene, potrebbe essere ad esempio un complemento d'arredo, un'automobile o anche un pacchetto di vacanze presso un'agenzia di viaggi, che è del valore di 3.600 euro o a salire, e in quel momento la mia controparte commerciale, quindi l'esercente o il commerciante, deve chiedermi il codice fiscale, perché questo dato l'anno successivo va comunicato all'agenzia dell'Agenzia delle Entrate. A che cosa servono questi dati? Servono a ricostruire la capacità di spesa dei contribuenti per poter poi applicare il cosiddetto redditometro. Che cosa fa il redditometro? Confronta le spese effettuate nell'anno, quindi il vero tenore di vita da parte del contribuente, con il reddito dichiarato, e se c'è una soglia di scostamento che è superiore al 20% tra appunto spese effettuate e reddito dichiarato al fisco, si accende una spia rossa, e in quel caso il fisco è legittimato ad andare avanti con una serie di controlli. L'ultima domanda in breve che ti voglio fare, Giovanni, è questa: ma poi questa spia rossa si accende, cioè l'Agenzia delle Entrate è veramente in grado di incrociare questi dati? Allora, abbiamo scritto tante volte sul Sole 24 Ore che c'è una proliferazione di banche dati da parte a disposizione del fisco. La vera sfida è questa, anche con l'intervento fatto dal garante della privacy sul redditometro, la vera sfida appunto diventa utilizzare i dati puliti, quindi insomma che in qualche modo possono effettivamente fotografare la situazione reddituale del contribuente. Adesso l'Agenzia delle Entrate sta cercando di fare tanti passi avanti, è normale che poi non basti di per sé il dato automatico in banca dati, ma vada in qualche modo riscontrato con delle verifiche. Tanto è vero che sul redditometro l'Agenzia delle Entrate dovrà fare ad esempio una verifica su qual è la reale composizione della famiglia del contribuente, perché non basta il dato di per sé per portare poi a presumere una determinata soglia reddituale. Ecco che quindi insomma, oltre all'intervento delle banche dati, serve molto l'intervento umano, quindi dei funzionari degli 007 del fisco, per poterli personalizzare la situazione del contribuente. E vedremo se veramente l'Agenzia delle Entrate ne sarà in grado. Grazie intanto al collega del Sole 24 Ore Giovanni Parente. Noi adesso parliamo gli aggiornamenti sulla situazione per quanto riguarda l'immigrazione. Quasi 1200 immigrati in 24 ore, oltre 800 li hanno salvati alla vigilia di Pasqua mentre erano alla deriva su due barconi che rischiavano di affondare, altri 321 li ha raccolti nella notte la nave San Giorgio, l'ammiraglia della flotta italiana nel canale di Sicilia. I 1200 sono stati portati nei centri di accoglienza, ma 300 di loro sono fuggiti, diretti verso il nord. In tutto sono oltre 20.000 migranti sbarcati dall'inizio dell'anno, numeri che stanno mettendo in crisi centri di accoglienza siciliani e che hanno spinto nuovamente la Lega in piena campagna elettorale per le europee ad attaccare il governo e la missione Mare Nostrum, un'operazione che, dice il segretario del Carroccio Salvini, finisce per finanziare gli scafisti e l'invasione delle nostre coste e dunque va sospesa immediatamente. Alla Lega arriva l'appoggio di parte di Forza Italia, che con Gasparri chiede di bloccare subito un'operazione demenziale in cui l'Italia è di fatto complice dei mercanti di morte. A difesa del governo si schiera invece il nuovo centrodestra, che parla di becera propaganda e assenza di responsabilità da parte dei leghisti, mentre il leader dell'UDC Casini invita a tenere Mare Nostrum fuori dalla campagna elettorale, ma chiede al Parlamento di verificare i risultati di questi primi sei mesi di missione. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Nella notte un maxi crollo di circa 20.000 metri cubi di roccia e pietre dal monte di La Sax. Siamo a Courmayeur, si è attivata la procedura di emergenza e è stato chiuso il traforo del Monte Bianco per quasi due ore. Oggi in visita in zona c'è il prefetto Gabrielli, il capo della protezione civile, che dice è a rischio la viabilità internazionale. Sentiamo. Credo che questa vicenda rappresenti come invece dovrebbe essere l'azione di un maturo sistema di protezione civile. Questa è una frana peraltro complicata, è una frana che non è rappresentata solo da quelle centinaia di metri cubi che molto probabilmente a breve si disgaggerà, ma è una paleofrana di circa 8-9 milioni di metri cubi che sta interessando questa zona, mi diceva prima il Presidente, da 15 anni, più o meno in maniera acuta, ma da 15 anni che viene monitorato, è una delle frane più monitorate d'Italia. È una frana che, al di là di insistere su un piccolo aggregato urbano, può avere complicazioni sul sistema viario internazionale, perché forse non tutti sanno che siamo a ridosso dell'entrata del traforo del Monte Bianco e un interessamento anche non solo della porzione più importante, ma basterebbe anche quella intermedia, bloccherebbe la viabilità internazionale per chissà quanto tempo. Così Gabrielli era ai microfoni di Sky TG24. Andiamo a Piombino adesso, dove si va verso lo spegnimento dell'alto forno. È come un malato terminale l'alto forno di Piombino, che resiste stoicamente all'affannarsi dei siderurgici al consulto sulla data di spegnimento. Tra martedì e mercoledì, si diceva fino a ieri, no, controordine, nella notte tra domani e dopodomani, correggono gli addetti alla colata continua. Nel pieno delle tenebre, come si conviene a un addio doloroso, avvolto nel silenzio dell'alta maremma toscana. Di sicuro questa è la settimana santa dei 2200 operai dell'acciaieria, a loro volta figli e nipoti di altri operai della Lucchini, ex Everstal, ex Italsider, ex Silva. 150 anni di storia italiana dell'acciaio che si congedano, manco a farlo apposta, tra la Pasqua, il 25 aprile e il 1 maggio. Tre date chiave per tre parole simbolo: resurrezione, liberazione e festa dei lavoratori, che in queste ore a Piombino hanno solo il sapore della beffa. Mariano Maugeri, Radio 24, sulla 24 ore, Piombino. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Scontro sul decreto lavoro, così non lo votiamo, dice il nuovo centrodestra. È in corso un vertice di maggioranza a Palazzo Chigi per cercare di sciogliere i nodi. I tagli di spesa, secondo alcune indiscrezioni, si andrebbe verso il dimezzamento degli F-35. Appena battuta dalle agenzie, le guide nepalesi hanno deciso di abbandonare il campo base Everest e di interrompere la stagione in omaggio ai colleghi morti venerdì per una valanga. Il ministro Alfano annuncia un piano speciale per la sicurezza a Roma. Si temono nuove manifestazioni violente dei movimenti per la casa. Altri 200 tra immigrati e profughi sbarcati nelle ultime 48 ore sulle coste italiane. Secondo la Lega, l'emergenza ci costa 300.000 euro al giorno. L'ultima notizia che vi diamo, prima di passare al prossimo argomento, è quella che riguarda le condizioni di Marco Pannella, che ha avuto un malore ieri sera e stamattina all'alba è stato operato. L'intervento di riparazione vascolare a quanto pare è andato bene. La notizia appena arrivata è che l'intervento è stato all'aorta addominale. Naturalmente omaggi, saluti e auguri di pronta guarigione sono arrivati da tutto il mondo politico. Saluto Gianluca Scucci Marra, che è coordinatore nazionale dell'Unione degli Universitari, l'Unione appunto degli studenti universitari. Buongiorno. Buongiorno. L'abbiamo chiamata perché oggi sono arrivati i risultati dei test di medicina. Volendo possiamo anche giocare, e lo avete fatto voi, no? Con i dati. Tra i primi 100 ci sono 15 padovani, 11 bolognesi, quanti provenienti dalla Sapienza di Roma, da Milano e da Bari? Allora, da Bari ne abbiamo ben 6, dalla Sapienza di Roma 8, dal Milano Statale 10, Bicocca 5. Senta una cosa, è un dato anomalo quello dei 6 di Bari, vista anche la notizia di un plico con i test manomesso? Allora, noi abbiamo fatto una semplice analisi rispetto agli anni scorsi e quello che abbiamo visto è che ad esempio l'anno scorso erano 0 sui primi 100, il primo barese era intorno a posizione 110-120, quest'anno ne abbiamo addirittura 6. Naturalmente noi non esageriamo nell'esprimerci, però di sicuro rispetto allo storico c'è un dato anomalo, ma noi crediamo in generale che ci siano dei problemi su tutta la graduatoria proprio perché via del plico scomparso. Ecco, perché che cosa succede quest'anno? Succede che la graduatoria è nazionale e se c'è una manomissione di un solo plico in uno dei luoghi dove si fa il test, il rischio è che venga invalidato l'intero test. Esatto, perché in realtà i ragazzi concorrono tutti quanti insieme, 64.000 persone in contemporanea in tutta Italia. Naturalmente se da una parte è scomparso un plico, qualcuno sapeva le risposte, da un lato possono essere arrivate ovunque, dall'altro sono tutti coloro che hanno partecipato alla graduatoria ad essere colpiti. Da qui la nostra richiesta di annullare il test. Prevedete una pioggia di ricorsi anche dai vostri associati, immagino? Noi, le dico, abbiamo già più di 1.800 segnalazioni tra irregolarità e altre casistiche. Abbiamo aperto i ricorsi, abbiamo già più di 500 adesioni semplicemente al ricorso. Ipotizzate una class action magari? Su questo assolutamente. Quello che noi stiamo facendo partire è un maxi ricorso collettivo che riguarda sia Bari sia tutte le altre sedi in Italia, quindi sì, una class action italiana. Grazie a Gianluca Scucimarra, presidente coordinatore nazionale dell'Unione degli Universitari, e saluto il sindaco di Pozzallo, Luigi Ammatuna. Buongiorno sindaco. Buongiorno, buongiorno a voi. In piena emergenza immigrazione, anche da voi naturalmente, hanno portato altre persone nelle ultime ore? Solo il giorno di Pasqua 800 migranti sono arrivati a Pozzallo, li abbiamo smistati a Mineo, Messina, Siracusa, solo 40 ne sono rimasti da noi perché noi abbiamo già il centro di prima accoglienza saturo. Saturo e 300 persone sono fuggite ieri. Sì, sì, dai vari centri prima di essere identificati sono scappati e quindi a Comi ne sono rimasti solo 77, mentre a Pozzallo ne abbiamo 274, sindaco, a fronte di una capienza di 180 persone. Sì. Sindaco, voi avete un contatto quotidiano naturalmente con questi migranti, avrete modo anche di parlarci, di conoscerli. Io vorrei capire da lei, da uno che ha una visione per così dire di frontiera, no? Della situazione, sì. Come se ne esce? È una situazione che sta cominciando un po' a preoccuparci, anche perché dalle dichiarazioni del ministro Alfano che ci sono 600.000 persone dall'altra parte che vogliono venire da noi, ci preoccupa un po'. Io che parlo quotidianamente con questi ragazzi che sono tutti laureati, diplomati, sono ragazzi per bene, dicono tutti che non vogliono rimanere in Italia, vogliono andare nell'Europa del Nord, Germania, Svizzera, Francia. Quindi questa preoccupazione che in questi giorni sento, che non abbiamo lavoro per noi e quindi non dobbiamo ospitare questi migranti, mi pare un po' azzardata, perché in Italia non vuole rimanere nessuno. E poi in gran parte, o meglio, in gran numero naturalmente sono profughi, anche se naturalmente qua il confine è molto sottile, no? tra profugo e tra richiedente asilo e immigrato economico, in certi casi almeno. Sì, sì, sicuramente sì, ma sono quelli che vogliono, molti si rifiutano di essere identificati per questo accordo di Schengen, di Dublino, che dice che devono stare in Italia quelle persone identificate in Italia. Questi abbiamo delle resistenze, la questura ha delle resistenze per la identificazione. Richieste di lavoro qua in Italia non ce ne sono, sicuramente vogliono andare all'estero, perché quando partono dal loro paese sanno che in Italia avrebbero difficoltà di lavoro. Quindi sicuramente vogliono andare in Germania e in Francia, dove hanno più possibilità. Senta sindaco, solo, probabilmente hanno anche parenti, amici lì che li aspettano. Quindi, cosa vi aspettate sindaco per le prossime settimane? Per le prossime settimane siamo un pochettino preoccupati, perché questa operazione Mare Nostrum ha aumentato il flusso. L'anno scorso in questo periodo avevamo solo la presenza di 4.000-5.000 persone, ora siamo arrivati quasi a 27.000-30.000. E secondo lei perché l'operazione Mare Nostrum ha aumentato il flusso, sindaco? Ha aumentato il flusso perché prendendoli lì appena le acque internazionali e portandoli verso qui hanno una certa sicurezza di poter arrivare, mentre allora c'era il rischio quando arrivavano con i barconi. Sicuramente ha facilitato un pochettino questo, però è giusto che non vengano portati solo in Sicilia, è giusto che l'operazione Mare Nostrum si faccia anche a terra. Non possiamo riceverli solo il comune di Pozzallo o Augusta o Portopalo di Capopassero. Le navi della Marina Militare possono accompagnarli anche in porti italiani. Grazie a Luigi Ammatuna, sindaco di Pozzallo, in bocca al lupo per i prossimi giorni. Un piano per la sicurezza di Roma, lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, i dettagli. Ripulire Roma dal degrado, dal commercio abusivo e dalla delinquenza di strada con un piano speciale per la sicurezza. In un'intervista al quotidiano Il Messaggero, il ministro dell'Interno Angelino Alfano lancia un intervento per l'emergenza criminalità che riguarda la capitale. Secondo il titolare del Viminale, occorre arginare fenomeni in aumento e il piano speciale si concentrerà anche sullo spaccio di droga e la prostituzione minorile. Preoccupazioni ci sono anche per la movida violenta nelle notti della capitale. Nella sola giornata di Pasqua, polizia e carabinieri hanno infatti arrestato 21 persone per rischio rissa e furti. Roma è la vetrina del nostro paese, commenta Alfano, e ci sono timori per i prossimi appuntamenti, in particolare per l'arrivo di turisti e fedeli in occasione della canonizzazione dei papi Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. Le forze dell'ordine si preparano infatti alla presenza di bande di borseggiatori provenienti da mezza Europa che, secondo le informative, si concentreranno in centro e vicino agli hotel. Daniele Scopigno, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ci sono le preoccupazioni anche del ministro Alfano, espresse per le manifestazioni dei prossimi giorni dopo le violenze che ci sono state la settimana scorsa appunto nella capitale, dopo durante una manifestazione dei movimenti di lotta per la casa. Allora saluto Paolo Di Vetta, che è esponente dei movimenti di lotta per la casa, che tra l'altro ha avuto, da quel che ho capito, qualche guaio giudiziario proprio in seguito alla manifestazione della settimana scorsa. Buongiorno Di Vetta. Buongiorno. E il guaio giudiziario qual è, per l'esattezza? Obbligo di firma, mi pare, mi hanno detto. Non sono relative alla manifestazione. Ah, non sono relative alla manifestazione. Aprile, ma bensì della manifestazione del 31 ottobre sotto la sede della conferenza Stato-Regioni, sempre per le questioni relative all'approvazione del decreto Lupi. Sento una cosa, decreto Lupi, quello che contestate, mi sembra di aver capito, è quell'articolo che dice che chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo, e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. È una norma, a guardarla da qua, di buon senso, Di Vetta? Bisognerebbe conoscere bene la realtà romana e anche di altre città a grande densità abitativa e anche con grande emergenza abitativa per poter ragionare con buon senso. Ci sembra il decreto interamente un decreto che non affronta l'emergenza abitativa al di là del suo titolo, e poi ci sembra che attacchi frontalmente i movimenti. Perché dentro una città come Roma, dove ci sono decine e decine di occupazioni, c'è anche un livello di mediazione tra amministrazione e chi gestisce le utenze, che è frutto anche di una relazione, di un confronto e anche del fatto che ci sono migliaia di persone dentro le occupazioni che in questo modo perderebbero sia il diritto alla residenza sia il diritto all'allaccio idrico ed elettrico. Pensiamo che questo sia un atto di poco buonsenso. Senta, Di Vetta, questa è la vostra posizione sul decreto casa, posizione che ha portato anche alla manifestazione che è sfociata in violenze. Secondo lei ci sono rischi per i prossimi giorni, le prossime settimane, che qualcosa di simile avvenga nella capitale? C'è una tensione che sta crescendo, c'è stato lo sgombero molto violento di pochi giorni fa nell'ottavo municipio, di cui ho fatto anche le spese insieme ad altri, ho 4 punti in testa. Se la questione di ordine sociale che riguarda il diritto all'abitare continua ad essere affrontata in termini di ordine pubblico, è chiaro che problemi ce ne potrebbero essere. Da parte nostra c'è tutta la disponibilità ad un confronto, ma è chiaro che si deve partire da una revisione dell'articolo 5 e anche dell'intero decreto Lupi. Molto concretamente, Di Vetta, teme che ci siano nuove violenze? Noi siamo in piazza sempre per manifestare e per rappresentare i nostri diritti, dopodiché il confronto con le forze dell'ordine e con il governo non è dei più semplici, e spesso la polizia viene scambiata al posto dei rappresentanti governativi, che oramai non sono più tanto sopportati da chi soffre il disagio e la crisi, e come rappresentanti vengono anche fatti oggetto della rabbia popolare. E quindi il rischio di nuove violenze è concreto, dice lei? Bisogna parlare dei risultati, bisogna mettere in campo risposte, altrimenti la situazione è destinata a peggiorare. Dal punto di vista anche, dice, delle violenze di piazza, in sostanza? Quando convochiamo delle manifestazioni e parliamo di assedio e di sollevazione, non è che poi possiamo simulare delle affermazioni. Per noi l'assedio è reale, o cambiano a livello governativo le misure che stanno aumentando precarietà e disagio abitativo, oppure la nostra risposta sarà decisa e forte. E violenta, quindi, anche, o no? Questo dice lei. Ah, no, lo dico io, l'ha fatto intuire lei abbastanza chiaramente, scusi. o no? Va bene, va bene. Non risponde, grazie a Paolo Di Vette. No, non avevo capito che era una domanda. Dico, l'ha fatto intuire lei abbastanza chiaramente, la risposta sarà violenta. Beh, si apre un confronto con questo movimento. Il 22 ottobre abbiamo incontrato il ministro Lupi, le risposte sono state il decreto, che non accetta nessuna delle nostre richieste. Si riapre il confronto e vediamo che cosa succede. Grazie a Paolo Di Vetta, esponente dei movimenti di grazie lotta per la casa. L'avrei tenuto un altro po', ma non abbiamo tempo. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Scontro sul decreto lavoro, così non lo votiamo, dice il nuovo centrodestra, in corso un vertice di maggioranza. Tagli di spesa, secondo alcune indiscrezioni, si andrebbe verso il dimezzamento degli F-35. Il ministro Alfano annuncia un piano speciale per la sicurezza a Roma. Si temono, come avete appena sentito, nuove manifestazioni violente dei movimenti per la casa. Come avete sentito, l'esponente dei movimenti per la casa dice: quando parliamo di assedio, facciamo sul serio. Altri 1200 tra immigrati e profughi sbarcati nelle ultime 48 ore sulle coste italiane. È il momento della borsa. Borse in diretta. Che riapre finalmente, lo fa bene, più 0,71% il FTSE MIB, più 0,7% il FTSE All Share, Parigi 1% percentuale di guadagno, Francoforte 1,5%, Londra più 1,07%, Olivia Zancaner, Radio Core, il Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. A cosa dobbiamo questo andamento positivo? Sì, allora dobbiamo dire che oggi i listini europei sono trainati soprattutto dal buon andamento di ieri di Wall Street, che ha chiuso la quinta seduta consecutiva in rialzo, dall'altra parte dal buon andamento del comparto farmaceutico, che in Europa guadagna oltre il 2,5%, il settore sotto riflettori grazie all'interesse dell'americana Pfizer per AstraZeneca, la società britannica che guadagna a Londra il 7% circa, grazie anche all'annuncio dell'accordo tra l'inglese Glaxo e la svizzera Novartis. I due titoli guadagnano al momento oltre il 5% e il 2,4%. In questa giornata Livia, mi sembra poco altro da segnalare, eccetto il calo delle popolari, ma avevano corso moltissimo la settimana scorsa, meno 1,62% il Banco Popolare, meno 1,09% la Pop Milano, UbiBanca mezzo punto percentuale di calo, Popolare Emilia Romagna meno 0,18%, IUX invece più 3,23%. E allora IUX registra la migliore performance sul paniere principale, appunto guadagna oltre il 3%, gli analisti sottolineano il continuo fermento sul settore del lusso, in particolare il ritorno di interesse dopo le indiscrezioni secondo cui il fondo Permira sarebbe interessato all'acquisto di una quota di maggioranza del gruppo Roberto Cavalli, quindi gli esperti iniziano a ragionare sui multipli ai quali potrebbe avvenire l'acquisizione, e i titoli maggiormente premiati o che potrebbero essere maggiormente premiati secondo gli esperti sono appunto Iux, Ferragamo e Brunello Cucinelli. E grazie a Livia Zancanare di Radio Core Sole 24 Ore, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. E ritroviamo in questa seconda parte di Effetto Giorno Gianandrea Gagliani, direttore di analisi difesa, collaboratore del Sole 24 Ore. Buongiorno Gianandrea. Buongiorno a voi gli ascoltatori. Allora, ti abbiamo coinvolto spessissimo sulle vicende ucraine e invece oggi ti vogliamo portare su qualcosa di più specifico che riguarda questo famoso taglio degli F-35. Si sta parlando, si sta ipotizzando addirittura di un dimezzamento. Ci riesci a dare, insomma, brevemente, poi magari vediamo se riusciamo ad approfondire, un quadro di che cosa potrebbe comportare un dimezzamento, se veramente a quel che ti risulta si sta ragionando su un'ipotesi di questo genere? Ma oggi ne parla Repubblica, qualche settimana or sono un documento elaborato dai deputati del PD all'interno della Commissione Difesa di Camera e Senato proponevano proprio un dimezzamento da 90 a 45 aeroplani. Ricordiamo che inizialmente l'Italia doveva acquisirne 131, ma il taglio a 90 esemplari era stato operato già dal governo Monti. Ma si parla di ottenere risparmi di 2 miliardi di euro con questo con questo dimezzamento io credo che il risparmio sarà molto più ampio, in realtà, perché i velivoli costano molto e non credo che il prezzo del singolo F-35 calerà, visti i problemi che ancora ha l'aereo di messa a punto. Il problema è capire se con 45 aerei possiamo fare qualche cosa, nel senso che una quindicina verranno assorbiti dalle esigenze della Marina, che deve impiegarli sulla portaerei Cavour, che può accettare solo aerei con capacità come l'F-35B di decollo corto e atterraggio verticale. L'aeronautica con 30 aeroplani, uno studio che abbiamo pubblicato su Analisi Difesa dimostra che in caso di impiego in missioni oltremare con 30 aerei in servizio l'aeronautica potrebbe dispiegarne in operazioni solo 4 o 5, quindi insomma oltre un certo numero si perde poi la capacità operativa. Bisognerebbe capire se invece ha un senso portare avanti l'intero programma F-35 se ne abbiamo veramente bisogno, e forse potremmo fare come i tedeschi che usano gli Eurofighter Typhoon che abbiamo anche noi, anche come cacciabombardieri, e forse una volta che la difesa avesse messo a punto questo libro bianco che stabilisca cosa fare delle nostre forze armate, capire se domani veramente ci serve una portaerei, se ci servono aeroplani per questa portaerei, e in quel caso nulla vieterebbe di acquisire un po' di F-35 magari in leasing dai Marines americani, spendendo anche molto poco. E poi c'è però la questione delle aziende italiane, per così dire, coinvolte, no, nel progetto, perché dal punto di vista economico questo è rilevante. Sì, rilevante, tenuto conto che la partecipazione italiana a questo programma è una partecipazione che coinvolge alcune aziende, ma sono, diciamo, compensazioni industriali a basso tasso di tecnologia. Insomma, rispetto a quello che le aziende italiane fanno in un programma europeo come quello dell'Eurofighter Typhoon, qui si tratta veramente di cose da poco. La partecipazione più importante è quella che ci porta a produrre dei cassoni alari, lo fa Alenia Aermacchi nello stabilimento di Cameri, che il contribuente italiano ha pagato 814 milioni di euro e che già comunque è destinato a non produrre in termini efficienti. Perché? Perché questo stabilimento dovrebbe produrre le ali, adesso siamo a circa 800, ma se dimezziamo la commessa, anche le compensazioni industriali che l'americana Lockheed Martin ci darà caleranno progressivamente, ma in questo stabilimento bisognava assemblare gli aeroplani italiani e quelli olandesi, solo che l'Italia da 131 è scesa a 90 e forse scenderà a 45, l'Olanda da 85 per motivi di costo è scesa a 37, e allora già in questo stabilimento forse non ci converrà neanche tenerlo aperto, perché i ratei di produzione saranno talmente bassi da non renderli convenienti. Grazie a Gian Andrea Gagliani, direttore di Analisi di Difesa, collaboratore del Sole 24 Ore, per essere stato con noi e per averci dato un po' di chiarezza anche sui numeri e sulla strategia che sta dietro tutto questo. Infine, insomma, prima di andare sul traffico, abbiamo 3 minuti per tornare su un vecchio tema sul quale ogni tanto si ritorna. L'apertura domenicale, diciamo, non solo dei negozi, in questo caso anche degli ipermercati, nella fattispecie l'apertura di Pasquetta. Saluto Luca Comiti, segretario della Filcams CGL di La Spezia. Buongiorno. Buongiorno a voi. La vicenda qual è? La vicenda è che proprio l'Ipercoop, quindi oggi il secolo XIX titola sinistra fratricida addirittura, decide di tenere aperto il lunedì di Pasquetta. Voi che avete fatto? Gli avete scioperato contro, in sostanza? Ma noi sostanzialmente abbiamo deciso di scioperare proprio perché, diciamo, in sostegno della festività avevamo anche un accordo integrativo che prevedeva per la giornata di Pasquetta la chiusura, quindi l'azienda unilateralmente ha deciso di aprire senza contattarci e benché meno, diciamo, chiedere eventualmente un accordo ponte che potesse dare questa opportunità, e quindi ha preso unilateralmente questa decisione. Questo è stato il motivo che si colloca all'interno di un percorso più ampio, che è un accordo integrativo in rinnovo e dove ci sono altri punti da discutere, però la Pasquetta era uno dei temi, comunque, anche se non è l'unico. Ecco. Anche se non è l'unico, siete comunque in fase di trattativa. Cosa ha fatto l'Ipercoop del centro commerciale Le Terrazze? Ha chiamato gente da altre esatto. Ipercoop sostanzialmente. Esatto, sostanzialmente per sopperire alla carenza degli addetti che hanno superato in massa, perché circa il 90% di personale è rimasta fuori dalle porte. forte, ha chiamato i capi di tutti gli altri ipermercati della provincia, perché noi qua vicino abbiamo un altro ipermercato, e di tutta la regione. Ecco, questo a mio parere, no, mette in risalto anche la distintività Coop, che è venuta un po' meno in questi ultimi anni, proprio perché si è sempre parlato di Coop come un'azienda, una cooperativa con la sua distintività anche rivolta al sociale. In questo momento credo che si sta comportando come una vera e propria azienda, quindi si guarda più al guadagno che non poi tanto ai valori probabilmente delle feste o di quello. Senta Comiti, abbiamo un minuto, c'è una cosa che mi interessa, perché da quel che mi diceva mi sembrava di capire, dato che abbiamo sempre avuto la CGIL su una posizione abbastanza rigida sui festivi lavorati, mi è sembrato di capire invece che lei da questo punto di vista sia non pregiudizialmente contrario, cioè si ragiona col datore di lavoro, ci si mette d'accordo sui soldi che mi devi dare per quel giorno, no, e si può fare. No, credo che le feste debbano essere rispettate, soprattutto quelle rosse. Capisco naturalmente che sia questo un periodo di crisi e quindi anche le aziende debbano fare, no, il loro corso, però credo che ci vogliono delle regole, credo che bisogna mettere mano al decreto Salva Italia, perché in questo contesto di liberalizzazioni selvagge non si è avuti né consumi né occupazione, si è soltanto sfruttato di più i lavoratori. Credo che bisogna mettere mano alle regole e dare in capo ai comuni e alle regioni la possibilità di ridiscutere quali sono le domeniche, perché ogni zona può essere poi ha le sue tipicità e quindi è ovvio che ci sono motivazioni e comunque necessità diverse. Io lo so che arrivano già gli sms degli ascoltatori, c'è chi dice io ieri ho lavorato, qual è il problema? Il problema è che ci devono essere delle regole, perché senza regole sarà sempre una deriva sempre più difficile da contrastare. Poi ci sono tipicità di lavori, ci sono tipologie di lavoro molto differenti, però è chiaro che anche i lavoratori del commercio devono avere purtroppo la possibilità di vivere con le loro famiglie determinate feste, almeno quelle 6 in rosso sul calendario, non ci dice di più, però credo che ci voglia una regolamentazione, questo sì. Grazie Luca Comiti, segretario della Filcams CGIL Spezzina. All'ascoltatore ci scrive, lo dice a noi che lavoriamo praticamente tutto l'anno ininterrottamente qua a Radio 24. Non tutti, non sempre, però insomma ci siamo. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. E ce n'è una appena battuta dalle agenzie, uno studente di 15 anni è ricoverato in condizioni gravi dopo un volo da una finestra del secondo piano della sua scuola a Vicenza. Sul posto per gli accertamenti la polizia è ricoverato in rianimazione. Linea a Mario Platero e ad America 24. America 24. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. How do you do, ladies and gentlemen? This is Orson Welles. Citizen Kane, film celeberrimo, Quarto potere, il film di Orson Welles del 1941, quando l'editoria, la carta stampata era tutto il potere. Appunto, il personaggio che interpreta Orson Welles nella realtà romanzata è ispirato al grande editore Hearst, che dominava la politica coi suoi media, coi suoi giornali, dominava il business, si arricchiva ed era uno dei più importanti magnati del suo tempo. Oggi il suo posto, naturalmente, lo sappiamo, è stato preso dai grandi avventurieri, eroi, imprenditori, visionari di internet, che hanno ingoiato un po' tutto, la carta stampata, quel quarto potere inarrestabile è molto meno potente, anzi è poco potente, non riesce a frenare l'onda lunga di internet, dei prodotti che la stanno travolgendo. Cosa fanno? Non soltanto rubano il mercato pubblicitario, ma rubano anche i giornalisti che sono nati, cresciuti, che si sono affermati nella carta stampata e che poi improvvisamente passano da un vecchio media a un nuovo